idea de que es un MC. Si tuviese que hacerlo yo lo haría así, destrozando cerebros como el éxtasis, como un hijo de puta de principio a fin. Mi puta idea, entérate, no soy una mierda, jódete. No sé de qué me hablas, no entiendo nada, explícate. No tenemos ni puta idea, te queda claro. Dos pavos, un puto español y un italiano. No tengo discos, no rimo cuando escribo. No soy un entendido, nunca he escuchado hip hop. Si nunca lo he intentado y lo hago, yo os parto en pedazos. Mi hermano Fabri no viene, frega un cazo. Yo no soy nadie, intenta encajar eso. Si fuese MC te clavaría el micro en el pecho. En conciertos lanzaría CDs con amoral. Te contaré un secreto, solo soy un tío normal. Afán culo, replantearos el futuro. Si tuviese que hacerlo MC verías el humo. Dudo de tu talento musical. Te dejaría mal sobre cualquier instrumental. Sé dobles y farlo, me sacaría el nabo. Haría fotos y las enviaría al Vaticano. Recoge los trozos y vete a Kelly. En este juego traigo ego como Nexi. No tengo ni puta idea de que es un MC. Si tuviese que hacerlo yo lo haría así, destrozando cerebros como el éxtasis, como un hijo de puta de principio a fin. Yo non ho la minima idea di cos'è un MC, ma se dovessi farlo lo farei così. Io ti brucerei il cervello come l'ecstasy, finché non ti rompi il collo mentre mi fai sì. Io non ho la minima idea di cos'è un MC, ma se dovessi farlo lo farei così. Io ti brucerei il cervello come l'ecstasy, finché non ti rompi il collo mentre mi fai sì. E vai così, prima o poi si collassa e fibra con l'indicto. Prendiamo mezzo chilo dai fratelli pronto a cassa, e poi lo rivendiamo al primo stronzo che passa. Facci 20 pasticche, rinchiudici in garage, come Erika col suo ragazzo facciamo una strage. Facendo questa carne in compagnia di tre le magi, mi renderà un fantasma manco fossi Marco Biagi. Che cazzo t'adagi? Non prendo più sonno. Il rap mi ha spezzato le gambe come mio nonno. Trattengo la merda da un mese mangiando pesante. Sto venendo a cagarti in testa da un tappeto volante. Sto in giro con la diarrea, lo stai capendo chi sono, comincio a farti un'idea. Ogni volta che lo ammazzi il mio rap si ricrea. Sono il più tagliato fuori dalla scena europea. Io non ho la minima idea di cos'è un MC, ma se dovessi farlo lo farei così. Io ti brucerei il cervello come l'ecstasy, finché non ti rompi il collo mentre mi fai sì. Fabri Fibra, Ellen Victor, Mobili Click, 2000 Trick. Ho rappato struzzo, peggio della calcia struzzo. Per il 2004, per il futuro raga. La connection. Sono più tagliato fuori dalla scena europea. Ehi,